libera dal tempo, libera dal vento, libera da tutto ciò che siamo noi. Libera da mode ed intellettualismi, libera di confessare ciò che vuoi. Libera nei gesti, nelle tue forme, dici parolacce, minchia se lo fai. Libera e sicura, ipernarcisista, libera di odiarmi e che piacere mi fai, che piacere mi fai. Angela, libera, libera il povero ubriacone che c'è in me. Non andartene via, era troppo, lo sai che aspetto. E sarò libero dal tempo, libero dal vento, libero da tutto ciò che siamo noi. Lo sai che mi piace non essere troppo libero, parlare con la gente delle cose che mi lasciano perplesso, finire a discutere se penso che disprezzano ciò che siamo stati anche noi. Hai una faccia spiritosa, uno sguardo provocante, c'è qualcosa che mi piace, dimmi tu cos'è. Quando dici sono bella, sprofondi nel sedile, sei anche un po' volgare, quasi quanto me. Dormo fino a tardi, prendo sempre il sole, sono sempre in mare, so che tu mi vuoi. Credo che l'equitazione non ci spiacerebbe, anche se è un po' lontana da noi, è lontana da noi. Angela, slegami, slega lo schiavo tossicomane che è in me. Non andartene via o mi fumo la ruota di scorta. E sarò libero dal tempo, libero dal vento, libero da tutto ciò che siamo noi. Libero dal tempo, libero dal vento, libero da tutto ciò che mi dirà. Angela, libera, libera il povero ubriaco che c'è in me. Non andartene via, voglio bere un metro di birra. E sarò libero dal tempo, libero dal vento, libero da tutto ciò che siamo noi. Libero dal tempo, libero dal vento, libero da tutto ciò che mi dirai.